pomeriggio e come avete visto delle due relazioni è dedicata in modo particolare alla liturgia occidentale e alla liturgia orientale. Avete capito anche dal primo cenno che ho fatto quasi distinto nella apertura di giovedì mattina come l'interesse anche mio particolare, ma quasi insomma in questo momento guarda molto alla liturgia e il problema della parola e del silenzio che è sul tappeto in questi giorni e non a caso i documenti nostri con insistenza raccomandano il sacrum silentium e forse nessun'altra raccomandazione nella celebrazione attuale è più disattesa che questa, tutte le altre che ordinano di far qualcosa sono più facili da eseguire che questa che piuttosto dice apparentemente di non fare e invece in realtà impegna a un fare che insomma non è quello semplicemente così dell'operazione o della parola spicciola. Ecco, e ringrazio i due liturgisti in modo particolare che hanno accettato anche a seguito di personali insistenze di fronte alle difficoltà che ognuno ha a prendersi il tempo per l'elaborazione di una relazione, però di essere con noi in questo giorno. Ho abusato addirittura dell'amicizia con Monsignor Enzo Lodi di Bologna, non ha potuto a nessun costo darmi un diniego e sono pertanto in debito di dirgli in modo del tutto particolare il mio ringraziamento. Voi conoscete già Monsignor Lodi, professore da tanti anni di questa materia al seminario di Bologna, ma poi tanto noto per una serie di pubblicazioni sia di carattere di indagine e di fonti, però i suoi documenti, le sue edizioni di documenti liturgici e di fonti liturgiche sono ormai fondamentali per noi, e poi per una intensissima attività di discussione e di animazione che insomma a tutti i livelli ha aiutato in questi anni veramente la maturazione delle idee e anche la discussione pratica sui comportamenti da assumere nella celebrazione. Ecco, e non manca stagione, vorrei dire che noi abbiamo in mano anche qualche nuovo sussidio o per l'Avvento o per la Quaresima, vero, che ci possa aiutare a lodare il Signore secondo gli indirizzi che Monsignor Lodi ci dà. Scusate questi riferimenti, ma li faccio qui proprio perché mi pare anche buona l'occasione per ricordare con riconoscenza per il suo immenso lavoro che non è soltanto di carattere libresco e di indagine, rispettabile sempre anche su questo, ma veramente di animazione poderosa in questo momento di crescita in cui noi stiamo avanzando in questo mondo di cose. Allora intanto a lui la parola sulla tematica silenzio e parola nella tradizione liturgica occidentale. Grazie Monsignor Roger, da cui mi lega una lunga e stimata amicizia da parte mia, era il primo presidente della nostra associazione, ci ha guidato. Comunque ringrazio anche voi e comincio subito con questo tema, con una premessa metodologica, poi due parti, è vero, e poi salto due o tre pagine, dirò perché, anche per stare nei termini. Premessa metodologica, questa relazione di carattere liturgico può essere svolta secondo due piste altrettanto valide. La prima è quella storico-rubricale, dimostrando con una ricerca sui libri liturgici e sulla prassi quale sia stato il posto riservato al silenzio nelle varie celebrazioni rituali della Chiesa romana. Si esclude per ovvie ragioni il rito ambrosiano, il titolo è liturgia occidentale, ma lo escludo. Dal momento in cui, specialmente per influsso dei riti gallicani, si comincia a dire il prefazio a voce sommessa, nel IX secolo, mentre il popolo resta fuori ad attendere in preghiera, come ricorda il Vangelo di Luca quando Zaccaria faceva l'oblazione dell'incenso dentro il santuario. Ma questa pista sarebbe troppo scontata e rischierebbe di diventare ripetitiva di studi già noti, molte cose sono citate in bibliografia, e infine prevalentemente cerimoniale, senza penetrare a fondo nel mistero del silenzio nel suo rapporto intrinseco con la parola rivelata. Una seconda pista, che invece mi sembra più utile, è quella di partire dalla struttura stessa della liturgia della parola, che fa parte essenziale del culto cristiano, per cogliere la dinamica del silenzio nelle sue varie articolazioni. Dopo questa visuale teologica, sarà possibile fare qualche accenno alla prassi attuale del silenzio nella liturgia del post-concilio. Questa riscoperta del valore del silenzio risulterà tanto più importante oggi dopo i richiami di illustri teologi, come il cardinale Ratzinger, che nel suo noto rapporto sulla fede dice: «Il concilio ci ha giustamente ricordato che la liturgia significa soprattutto actio, azione, e ha chiesto che i fedeli sia assicurata un'attuosa participatio, una partecipazione attiva, è un concetto sacrosanto, che però nelle interpretazioni post-conciliari ha subito una restrizione fatale. Sorse cioè l'impressione che si avesse una partecipazione attiva solo dove ci fosse un'attività esteriore, verificabile, discorsi, parole, canti, omelie, letture, stringer di mani e puntini. Ma si è dimenticato che il concilio mette nell'attuosa participatio anche il silenzio, che permette una partecipazione davvero profonda, personale, concedendoci l'ascolto interiore della parola del Signore. Ora di questo silenzio non è restata traccia in certi riti. Per verificare la gravità di questo rilievo, faremo nella seconda parte una rivisitazione della normativa liturgica con una valutazione sommaria della prassi. Perciò questa relazione sarà strutturata in due parti. La prima teorica cercherà di affrontare il fondamento del silenzio nel suo rapporto organico con la parola liturgica. Nella seconda si fa il richiamo alla disciplina rituale vigente che permetterà di comprendere meglio le carenze della prassi e di descrivere quale sia il modello di una liturgia ove il silenzio occupi il posto che gli compete, essendo parte della celebrazione, come dice la Sacrosanto un concilio. La prima parte, appunto, è la liturgia della parola e liturgia del silenzio. Non si può parlare nel cristianesimo e nel culto liturgico di silenzio senza rapportarlo alla parola, nella economia del verbo incarnato, tanto più che la riforma conciliare ci ha fatto riscoprire l'importanza della Sacra Scrittura nella celebrazione liturgica e ha posto come grande principio l'affermazione teologica che Cristo è presente nella sua parola perché è Lui che parla quando nella Chiesa, cioè nell'Assemblea, si legge la Sacra Scrittura, il Sacrosanto Concilio. Ora, qual è il significato teologico della liturgia della parola, intesa nel senso di una celebrazione pubblica di carattere rituale, cioè strutturata secondo le leggi stesse della liturgia, che come dice Jungmann sono proclamazione, risposta, preghiera? Senza questa premessa di contenuto non è possibile penetrare nella realtà del silenzio rituale, che per sua natura sembra privo di articolazione, ma che di fatto si rivelerà specificamente strutturato alla celebrazione. Bisogna osservare, poi, che questo punto di partenza dalla liturgia della parola facilita la comprensione anche degli altri ambiti rituali, dove il silenzio ha il suo rilievo. Non c'è dunque un aspetto unico della parola, quello della sua celebrazione liturgica, ma senza dubbio è il più importante questo, perché la religione o fede cristiana è la rivelazione della parola divina, cioè del Verbo eterno attualizzata nella Chiesa. Non si tratta dunque di un semplice insegnamento cherigmatico o catechetico, la liturgia della parola, dispensato alla comunità cristiana, né di una sola spiegazione dei libri santi, neppure di una sola tappa preliminare alla liturgia propriamente sacramentale, ma di un evento della economia della salvezza nella quale siamo attori. Il primo presupposto è dunque quello del rapporto tra la parola di Dio e il silenzio, nel suo stadio iniziale e poi nel passaggio all'economia del Verbo incarnato. Il primo punto è questo, dal Verbo eterno alla parola incarnata. Una frase misteriosa di Ignazio di Antiochia, oggi ne celebriamo la festa liturgica e quindi sono lieto di averlo citato 2 o 3 volte, è una festa comune sia all'Occidente e sia all'Oriente, anche all'Antiochia. Ci illumina, una frase di Ignazio, ci illumina sulle origini della parola, chiamata secondo il linguaggio giovanneo verbo o logos, in rapporto al silenzio. Infatti dice che il silenzio non è una pura immagine nel rapporto tra il padre e il figlio, ma una realtà divina, nel senso che se in principio era il verbo e il verbo era Dio, Giovanni, il silenzio rimane un attributo del padre, come termine di relazione opposta alla parola o verbo. Il padre non è il verbo, ma silenzio. Così dice Ignazio, il verbo eterno, logos, del padre procede dal silenzio. Verbum eternum, ho messo anche il testo greco in nota, a silenzio progrediens. Si deve però interpretare questa frase, sono andato a vedere l'interpretazione critica della Ermeneia, un testo americano, in inglese, recente, che è il più aggiornato. Si deve interpretare questa frase che ci squarcia il mistero del silenzio nella Trinità, tant'è vero che nella versione volgata latina c'è stata un'interpolazione derivata dalla preoccupazione del IV-V secolo di allontanare ogni sospetto di interpretazione gnostica dal secondo successore di San Pietro nella sede di Antiochia. Il verbo dunque, secondo Ignazio, non è venuto nel mondo rompendo il lungo silenzio fino al momento in cui ha cominciato a parlare con la rivelazione, e soprattutto nell'incarnazione, ma è la parola eterna che procede, esce, proizzon, dal Padre fin dall'eternità, come dal silenzio eterno, quel silenzio che già Tertulliano considererà come precedente al logos proforikos, il sermo, cioè la parola detta, proferita, quando Dio, nella sua stessa ragione, il logos endiatetos, la ratio dei greci, aveva questa parola dentro se stesso, tacitamente, pensando e disponendo dentro di sé quello che poi avrebbe detto per mezzo del discorso. Questo è Tertulliano, quindi l'interpretazione di Tertulliano riscatta questa frase di Ignazio, così densa, da ogni contaminazione gnostica. E qui salto 2 pagine, perché il tempo stringe, qui avevo tentato di dare un po' tutta la teologia della liturgia della parola, e lo salto appunto perché il tempo stringe, lo troverete nel testo. Questa teologia liturgica della parola spiega perché l'antifona della seconda domenica dopo Natale evochi la venuta del Verbo incarnato fra noi con una libera applicazione di un testo della Sapienza alla realtà, applicazione alla realtà del Natale. Infatti, secondo il modo proprio al Midrash giudaico, l'autore, meditando sulle piaghe d'Egitto imposte dalla parola di Dio ai persecutori di Israele, afferma che nella notte della Pasqua l'Egitto è immerso logicamente nelle tenebre perché ha preteso di impedire ad Israele di dare al mondo la luce della fede, è il libro della Sapienza 18.4. Così che la parola divina si è lanciata per sterminare i primogeniti, anche nel mistero dell'incarnazione, dice questa antifona, nel quieto silenzio, seconda domenica di Natale, nel quieto silenzio che avvolgeva ogni cosa, mentre la notte giungeva a metà del suo corso, il tuo verbo onnipotente, o Signore, è sceso dal cielo, dal trono regale. Dunque anche qui la parola di Dio scende nel silenzio, come nella Pasqua profetica dell'Esodo, ma non più per uccidere, lo stesso verbo perire inquadra in modo significativo l'inizio e la fine dell'evento pasquale, ma per rivelarsi nella fragilità di un neonato salvatore. Questo passaggio dal silenzio alla parola, nel piano dell'economia della salvezza, evoca quello che già Ignazio ha scritto sul piano intratrinitario, cioè del verbo che nasce dal silenzio eterno del Padre. Ora, nella liturgia, anche questo silenzio che si è incarnato nella parola, divenuta il Cristo uomo Dio, è pure incarnato, cioè diventa rituale, perché inserito in una realtà di segni che sensibilmente lo esprimono, come l'umanità di Cristo esprime e visibilizza la sua divinità. In questo senso va intesa teologicamente la frase della Costituzione liturgica che dice: per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, nonché le azioni, i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche a tempo debito il sacro silenzio. Numero 30 della Costituzione. Questo riferimento del silenzio, come è noto, è stato aggiunto per intervento di Monsignor Philippe al testo primitivo che ne era privo. Troverete in nota la giustificazione di questa aggiunta. Così come il silenzio eterno del Padre non indicava solitudine presso Ignazio, perché dal silenzio proviene il Verbo, così il silenzio del Natale, da cui esce il Verbo incarnato, è un silenzio che diventa partecipato, in quanto fa parte della liturgia della parola. Nel silenzio della notte di Betlemme, al riparo delle controversie fra teologi, fra sommi sacerdoti e scrivi, come dice Matteo, il Verbo si è fatto carne. Lui che, secondo le genealogie del Vangelo dell'infanzia, risale fino a Dio. Così la parola che nasce, che è generata ad un preciso istante della celebrazione liturgica, è frutto dell'economia del Verbo incarnato, che diventa liturgia perché l'avvenimento vissuto dal Cristo una volta per tutte non cessa di essere vissuto e comunicato dal vero popolo di Dio, che è la Chiesa. Il fatto stesso che il silenzio sia incluso negli elementi che costituiscono la struttura della partecipazione alla liturgia, cioè nella realtà sacramentale della Chiesa, che realizza la densità escatologica dell'economia, come afferma la Costituzione liturgica, al numero 8, spiega perché la parola, divenuta evento liturgico nell'oggi della presenza del Verbo divino, sia impotente a rendere conto della sua origine insondabile, donde essa sorge. Essa non può manifestarsi che nel silenzio. Questo spiega perché una delle quattro forme o tipi di silenzio che sono previste nelle premesse del Messale è quello dopo la lettura o l'omelia, che è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato. Perché la parola diventi evento ecclesiale ed esistenziale, in quanto lo Spirito Santo, che è agiografo nelle Sacre Scritture, diventa nella liturgia iconografo per scolpire nel popolo radunato dell'assemblea l'icona vivente del Cristo risorto, occorre che dopo di essa il silenzio previsto dalla liturgia, che fa le veci del silenzio del Natale come una custodia nella notte, come dice Luca, crei questa disponibilità allo Spirito, che deve poter generare la parola come un Evangelo o buona novella, cioè una novità che causa grande gioia per tutto il popolo, come dice Luca. Già nel 1967, l'istruzione Musicam Sacram prescriveva: si osservi a tempo debito il sacro silenzio. Per esso, infatti, i fedeli non sono ridotti a partecipare all'azione liturgica come strani e muti spettatori, ma si inseriscono più intimamente nel mistero che si celebra, in forza delle disposizioni interne che derivano dalla parola di Dio che si ascolta, dai canti e dalle preghiere che si pronunciano e dall'unione spirituale col sacerdote che proferisse le parti a lui spettanti. E ancora l'istruzione generale della liturgia delle ore raccomanda: per accogliere nei cuori la piena risonanza della voce dello Spirito Santo e per unire più strettamente la preghiera personale con la parola di Dio, si può dunque, secondo l'opportunità e la prudenza, interporre un intervallo di silenzio e dopo i singoli salmi, appena ripetuta l'antifona, secondo un'antica usanza, e specialmente se dopo il silenzio si aggiunge l'orazione salmica, oppure dopo le letture, sia brevi che lunghe, e precisamente prima o dopo il responsorio. Si deve evitare di introdurre momenti di silenzio che deformino la struttura dell'ufficio o rechino molestia o fastidio ai partecipanti. Nella recita individuale, invece, c'è più ampia possibilità di fermarsi nella meditazione di qualche formula che stimoli gli affetti dello spirito, senza che sia che l'ufficio perda per questo la sua caratteristica di preghiera pubblica. Citazione conclusa. Quest'ultima precisazione concernente la recita comunitaria, perciò più formalmente liturgica dell'ufficio divino rispetto a quella privata, che è l'unico caso, notate, nella liturgia di una celebrazione fatta anche da soli, l'unico caso, evidenzia in modo chiaro che il silenzio liturgico non è da intendersi fuori della struttura dell'azione celebrata, proprio perché nel corso dei secoli il legame fra teologia, spiritualità e liturgia si è allentato fino all'intrusione nella messa degli esercizi di pietà o devozione popolare, rosario, coroncine, eccetera, eccetera, ai quali ci si dedicava silenziosamente. Bisogna oggi richiamarsi alla natura di questo silenzio di partecipazione attiva. Tuttavia, bisogna osservare che la vera spiritualità liturgica della partecipazione attiva, che non può conciliarsi con la spettacolarità muta o l'assistenza passiva, non può radicarsi esclusivamente nell'ascolto della parola, senza inserirvi sufficientemente i valori che si collegano ad una presenza che supera anche la parola, in quanto suppone soprattutto un raccoglimento silenzioso. Quando la spiegazione prende il posto dell'invocazione o dell'adorazione, allora si comprende la nostalgia di quelle messe preconciliari dove si poteva pregare in pace, come nota il cardinal Ratzinger in un altro punto del rapporto, con scapito evidente delle leggi della celebrazione cristiana. Il vero silenzio della liturgia non è quello che isola e diventa una rottura della comunione, ma il silenzio riempito dalla presenza di Dio. Le ragioni del cattivo silenzio, estraneo alla liturgia della parola, da intenderci detto prima non solo nel senso di parola ispirata o scritta, ma anche di parola acclamata, cantata o spiegata, possono essere varie, dal ripiegamento su di sé individualistico alle manifestazioni di egocentrismo. Il demonio muto, infatti, può travestirsi da angelo di luce con il pretesto di interiorità e di pratiche contemplative mutuate da una religione che non ha per centro l'evento della parola fatta carne e trasmessa nello spirito alla Chiesa. Quando la rivendicazione del silenzio si accompagna con una reale misconoscenza della natura della celebrazione liturgica, nel senso sopra indicato, allora bisogna fare un'iniziazione educativa per comprendere il senso del fatto che la parola, accompagnata dal silenzio, è finalizzata alla celebrazione propriamente sacramentale, cioè è il suo inizio essenziale. Una liturgia della parola, nelle prime esperienze della comunità cristiana, era una vigilia, una veglia nell'attesa della venuta del Signore, celebrata sacramentalmente, donde l'acclamazione «Vieni, Signore Gesù, Maranatà». Secondo punto, dal significato liturgico del silenzio alle sue motivazioni strutturali. Già si è detto che il silenzio, poiché è parte della celebrazione, è motivato dalla partecipazione attiva perché i fedeli si inseriscano più pienamente nel mistero che si celebra, dal fatto che esso più che mezzo pedagogico è necessario per accogliere nei cuori la piena risonanza della voce dello Spirito Santo e per unire più strettamente la preghiera personale con la parola di Dio, così dice la liturgia delle ore. Ma non si percepisce ancora pienamente il suo valore se non si rapporta il silenzio non solo alla sua origine, che abbiamo vista eterna e trinitaria nel seno del Padre, ma anche al suo termine. Il seme che è la parola di Dio, se non muore, non porta frutto, dice Giovanni. Come nella nascita la parola o verbo si è incarnata nella discesa dal silenzio divino, così nel silenzio della croce il verbo incarnato è morto per poter essere glorificato. Questo spiega perché le rubriche prescrivono la preghiera eucaristica esige che tutti l'ascoltino con rispetto e in silenzio e vi partecipino con le acclamazioni previste dal rito, senza che nessun canto o suono possa turbarne la proclamazione silenziosa del solo celebrante. Si potrà osservare che ora questo silenzio del popolo, temperato dalle quattro acclamazioni previste, voi sapete, quella del prefazio, del santo, dell'anamnesis, dei fedeli e dell'amen finale, non è più il rigoroso silenzio che dal secolo IX, guardate bene, dal secolo IX, si era introdotto con la frase «Surgit solus pontifex et tacite intrat in canonem». Ma l'idea sottesa non era tanto quella di favorire il senso del mistero, cioè dire il canone in silenzio, del suo culmine celebrativo, quanto quella che tale preghiera era il santuario riservato soltanto al presidente celebrante, al punto che le sante parole non potevano essere profanate col rischio di attirare il giudizio di Dio come si credeva. Remigio d'Auxerre riporta un fatto riferito da un noto autore orientale, secondo cui alcuni pastorelli sarebbero stati uccisi dal fulmine perché avevano cantato il canone durante il pascolo. E citati, no? Senza dubbio, la rivendicazione della natura presidenziale della grande preghiera eucaristica va mantenuta oggi, nel rispetto dei ruoli propri dei ministri a cui compete, ma non è più giustificabile che lo stesso ministro, nel fare le veci del Cristo sommo sacerdote nell'ultima cena, dica sottovoce, per sé il silenzio del canone non era inteso solo come recita a bassa voce, ma in silenzio, percepibile almeno ai ministri assistenti. Questa preghiera consacratoria che riassume tutta la liturgia della parola, perché attualizza, o meglio, ci ripresenta noi all'unico evento del sacrificio della croce e della Santa Cena. Il religioso silenzio del popolo è infatti interrotto dalle quattro acclamazioni che sottolineano come questa preghiera presidenziale non è solo proferita nella persona di Cristo, in persona Christi, la famosa frase, ma anche a nome dell'assemblea. Il significato di questa preghiera, come dice l'istruzione del Messale Romano, è che tutta l'assemblea si unisca insieme con Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell'offrire il sacrificio. Come la parola dunque è impotente a rendere conto della propria nascita e perciò nasce dal silenzio eterno del Padre e si incarna nel silenzio di una notte, così solo il grande silenzio della croce può manifestare al mondo il suo destino. Infatti, dopo la comunione eucaristica, le rubriche del Messale prescrivono ancora il silenzio, è l'ultimo dei quattro momenti prescritti, con la motivazione che favorisse la preghiera interiore di lode e di ringraziamento. Si tratta del prolungamento necessario del silenzio della preghiera eucaristica, che come azione di grazie è stata proferita ad alta voce ma ascoltata nel silenzio, ed ora viene consumata nel silenzio dei cuori di ciascuno che partecipa sacramentalmente al sacrificio stesso. La stessa norma del Messale richiama che il celebrante si preparerà con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il corpo e sangue di Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio, dice sempre il Messale Romano. Al termine di questa prima parte, che ha cercato di scoprire le motivazioni profonde del silenzio nella liturgia, si può riassumere tutta la teologia del silenzio nella sua visuale strutturale con le parole di uno dei documenti illustrativi del valore normativo e disciplinare della preghiera eucaristica, inviato come lettera circolare dal Cardinale del Carro, che loro lo presiedeva, mi sono rivolto anche lui alla parte, ai presidenti delle conferenze episcopali. Si rispetti sempre il sacro silenzio, da osservarsi nei tempi stabiliti quale parte dell'azione liturgica, affinché i singoli in rispondenza al momento particolare in cui viene collocato rientrino in se stessi, oppure riflettono brevemente su quanto hanno ascoltato, ovvero lodino e preghino Dio nell'intimo del proprio spirito. Le tre finalità di questo silenzio trovano applicazione normativa sia nel silenzio dopo la lettura o l'omelia nella liturgia della parola strettamente intesa, sia nell'atto penitenziale, quando si è invitati a rientrare in se stessi per il pentimento, previsto un silenzio, sia dopo l'invito alla preghiera, purtroppo non si fa mai, quando, come dice la norma, tutti insieme con il sacerdote, i fedeli stanno per qualche momento in silenzio per prendere coscienza di essere alla presenza di Dio e formulare nel proprio cuore la preghiera personale. Quindi il sacerdote dice l'orazione chiamata comunemente colletta. La liturgia è dunque un'azione ecclesiale nel genere dell'azione comunitaria e sostanzialmente carismatica ed operativa, ma proprio perché le parole non sono sufficienti a manifestare il mistero dello Spirito che le rende sacramentalmente efficaci, occorre il silenzio per permettere alla parola di risalire alla sua dimensione eterna. Esso si richiede anche di associarsi ai gesti che la liturgia prescrive siano fatti nel silenzio, come nell'imposizione delle mani per le ordinazioni e per l'unzione degli infermi. Veniamo alla parte seconda, la prassi liturgica del silenzio e della sua dinamica. In questa seconda parte si possono prendere in esame due argomenti che si collegano fra di loro: come gestire la dinamica del silenzio nel corso delle celebrazioni, per poi definire la tipologia del silenzio secondo le norme liturgiche. Il silenzio costruttivo di comunità, dalla partecipazione alla comunione. L'impegno a creare il senso comunitario per mezzo delle azioni liturgiche, che per loro natura non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, e perciò da preferirsi compiute in forma comunitaria, come dice la Costituzione turca, sembra escludere il silenzio, ma, come si è detto, è solo il silenzio di un isolamento egocentrico che si appone allo spirito comunitario, perché, come dice Rudolf Otto, il silenzio rituale è un'entità sociale e corporativa, proprio come un suono o una processione, quando è propriamente esercitato. Il silenzio nel culto fa sì che uno senta almeno tangibilmente, come il radunarsi insieme del popolo in assemblea, un incontro di menti e di cuori. Fine della citazione di Otto. Se tutto nel simbolismo liturgico porta un messaggio, anche il silenzio col suo proprio linguaggio è capace di attrarre insieme tutti i partecipanti nella comunità genuina dello spirito. Romano Guardini inizia le sue meditazioni prima della messa con tre brevi capitoli sul silenzio e dice: se qualcuno mi domandasse dove comincia la vita liturgica, io risponderei con l'apprendimento del silenzio. Senza di esso tutto manca di serietà e resta vano. Questo silenzio che è la condizione prima di ogni azione sacra. Il silenzio, dice ancora, apre la fonte da cui scaturisce la parola. Si tratta perciò di considerare il silenzio, secondo il citato Otto, come egli lo definisse, una spontanea reazione al sentimento del numen presence, e non soltanto come una esigenza della inadeguatezza delle parole davanti alla presenza divina, ma perché possiamo cioè fare di questo silenzio non un surrogato delle tecniche di yoga, come abbiamo sentito ieri. È necessario che il silenzio sia disciplinato, cioè situato in momenti giusti e non affidato alla spontaneità e creatività individuali. La sobrietà della preghiera liturgica è una modalità del nostro omaggio al Signore, perciò la normativa rituale prevede interventi ben delimitati che sono riducibili solo alle quattro parti della celebrazione, come introduzione all'inizio del rito, prima delle letture, alla liturgia della parola o dopo le letture, prima di iniziare il prefazio o qualche orazione consacratoria, prima della conclusione o del congedo. Pure gli interventi previsti per il commentatore, previsto appunto dal messale, che dovranno essere preparati con cura, chiari e sobri, non di omelie, eccetera, si limiteranno a poche spiegazioni ed esortazioni, come dice il testo, per introdurre i fedeli nella celebrazione e meglio disporli a comprenderla e seguirla. È implicito che queste munizioni non devono sovrapporsi a quelle previste per il presidente, né fare concorrenza ad esse. L'abuso frequente di interventi prolissi, anche se catechetici, sono una rottura di quel silenzio che esige la sobrietà. Aggiungere frasi ai testi e spesso aspettare lo slancio dell'invocazione ci si mette a insegnare Dio invece che ascoltarlo. Così pure intercalare commenti ai testi ufficiali può trasformare il rito penitenziale in un discorso e il prefazio in un mini trattato di teologia. La disciplina del silenzio esige dunque il rispetto dei generi letterari della preghiera liturgica, ignorati spesso da chi si abbandona a una creatività, non dico selvaggia, ormai passata di moda, meglio così, ma perlomeno sproporzionata e indisciplinata. Il rispetto del rituale, che gioca il ruolo di semaforo contro i pericoli della manipolazione, di salvaguardia del riposo dello spirito e della libertà di aderire al mistero, fa parte della natura del silenzio. Infatti la ripetizione creatrice che permette il rituale, con le possibilità di adattamenti e di interventi moderati e adeguati ai singoli momenti e ai ritmi della celebrazione, ha lo scopo di liberare dalla routine e soprattutto di permettere il silenzio interiore che è necessario per lasciarsi impregnare dalla parola di Dio e dalla forza mistagogica dei testi liturgici. I fenomeni di saturazione provocati da interventi troppo frequenti e da cambiamenti arbitrari sono ben noti ed oltretutto sono una via certa all'insignificanza e all'appiattimento. Il silenzio liturgico, che è previsto per tempi e luoghi ben determinati ed anche adeguati ai vari tipi di assemblea, non è dunque intempestivo, perché non spezza il ritmo della celebrazione, ma si adegua alle varie forme celebrative. La silenziosa gravità del Venerdì Santo non è conveniente al giorno di Pasqua. Nella liturgia dei funerali dei malati si può paragonare a quella di un battesimo o di un matrimonio. Tuttavia, occorre ricordare che anche il vero lirismo festivo suppone il raccoglimento, non cede all'espressionismo, perché deve contare piuttosto sulla potenza silenziosa dei simboli liturgici, senza che vengano talvolta ridotti a slogan didattici o catechetici e perciò snaturati della loro carica significativa. Il criterio del funzionalismo, che senza dubbio ha giocato un ruolo positivo nell'architettura delle chiese moderne, delimitando gli spazi appropriati per l'esercizio delle varie funzioni celebrative, favorendo così la partecipazione attiva di tutti, non deve divenire la regola dominante nelle articolazioni dei ritmi e dinamismi celebrativi, sacrificando la zona di sobria ebbrezza dello spirito, come direbbe Ambrogio, che pervade i sacri misteri. Senza addentrarci in una casistica pedagogica della disciplina del silenzio liturgico, si può osservare che se il silenzio è parte della partecipazione attiva alla liturgia, ne deve rispettare le regole intrinseche. Questa esigenza di partecipazione non è lo strumento dell'adattamento liturgico, né il pretesto per sostituire ad una liturgia ecclesiale una propria liturgia particolare. Neppure la partecipazione cosciente va confusa con la catechesi liturgica propriamente detta, che deve essere piuttosto previa ad essa, pur utilizzandone molto sobriamente qualche tratto attraverso le sobrie spiegazioni, le munizioni o introduzioni ai riti già indicati. La partecipazione attiva deve essere sì esterna, ma soprattutto interna. Questo è lo scopo della stessa liturgia partecipata, in vista del suo compimento escatologico. Lo Spirito Santo è l'azione stessa intesa come potenza, come virtus, capace di realizzare l'economia salvifica dell'opera redentrice nell'attualità, ikat nun, oggi, celebrativa, per portarla a compimento nel tempo e nello spazio. Perciò la sintonia della nostra azione con tale azione dello Spirito crea quella sinergia che per gli orientali corrisponde al nostro concetto di partecipazione attiva e di comunione attiva. E questa suppone un'assimilazione vitale ed esistenziale, che si potrebbe meglio dire pneumatologica, delle realtà misteriche celebrate. In questo contesto di partecipazione liturgica, che è più vasto di quello della sola partecipazione all'azione liturgica, notate, partecipazione è più che solo partecipazione all'azione liturgica, perché non formalizza la realtà liturgica al solo momento celebrativo, la prassi del silenzio diventa mistagogica, nel senso più forte del padre. Sarebbe società di nota di amici l'Areopagita, Pagita inizia l'introduzione a vivere il mistero celebrato. Se lo Spirito è lo Spirito Santo che rende efficace, cioè attiva in noi l'opera salvifica nell'oggi della liturgia, è questo soffio divino che, portando la parola e il silenzio nel cuore di questa, diventa ispiratore dei vari tipi di silenzio che sono propri della celebrazione di tutti. I silenzi della liturgia sono già descritti nelle indicazioni dei documenti liturgici, circa la natura e le funzioni di questo elemento strutturale della celebrazione e possono essere classificati diversamente. E vengo a quest'ultima parte, ho già finito. Le varie forme di silenzio liturgico. Per un'analisi sommaria di queste forme o tipi di silenzio si potrà seguire la celebrazione della messa, che è quella che struttura con le sue quattro parti la generalità degli altri riti sacramentali, che sono sempre divisi in quattro parti. Primo, il silenzio di accoglienza o di attesa o di raccoglimento, una delle terminologie un po' analogiche. Il primo atteggiamento per introdurre ogni celebrazione è quello di prepararsi ad accogliere il mistero celebrato nel rito. È la presenza divina a cui ci si dispone per prenderne coscienza con istanti di silenzio, sia con una concentrazione su se stessi o con una breve riflessione, così dice il direttore per la messa dei bambini, per i bambini, oppure con un gesto, prostrazione al Venerdì Santo, con un rito di commiato nel rito delle esequie, con una breve esame di coscienza nel rito penitenziale della messa. Ma è specialmente l'accoglienza al rito che deve invitare al raccoglimento, con un breve momento di silenzio prima dell'inizio della liturgia. Sentirsi convocati in assemblea liturgica da Dio suppone lasciarsi afferrare da colui che si è consegnato per me, riconoscere nel silenzio dell'attesa amorosa il Cristo che si dona. Questi istanti di silenzio, dopo la cura ansiosa dei preparativi o la preoccupazione di dimostrarsi cordiali nell'accoglienza, sono determinanti per rivelare lo stile, il clima e l'andamento generale di tutta la celebrazione. Secondo, il silenzio di raccoglimento. Questo silenzio precede le preghiere silenziose che precedono a sua volta la colletta della messa. Dopo l'invito preghiamo ed ha lo scopo di raccogliere le intenzioni silenziose di preghiera dei fedeli. Questo intervallo, che spesso non è rispettato dai presidenti, dimostra oltretutto che l'assemblea non è un aggregato dove il noi della preghiera ufficiale non sopprime le intenzioni di ciascuno che davanti a Dio si pone in atteggiamento di supplica, così come si consiglia nelle altre forme di invocazioni della preghiera universale, sia della messa che nella liturgia delle ore. Il modello arcaico romano delle orazioni solenni del Venerdì Santo, esteso a tutte queste forme di intenzioni, invocazioni precedute dal celebrante, deve essere rispettato nella sua sequenza. Intenzione, preghiera, silenziosa, orazione presidenziale. Anche nella recita delle orazioni o intenzioni, una certa scansione di parole che eviti il loro accumulo quasi a cascata di idee, deve ispirarsi all'esigenza di un silenzio di rispetto all'interno delle parole e delle frasi, che diventa indice di verità della stessa parola. In altre riti, ad esempio la confermazione, la professione religiosa o per i ministeri istituiti, si consiglia che si faccia una pausa di silenzio dopo aver esortato i partecipanti a pregare. Terzo, il silenzio di assimilazione interiore o di appropriazione. È il silenzio che interiorizza le grandi preghiere presidenziali, fra le quali la preghiera eucaristica occupa il primo posto, perché il presidente interpreta sia la voce di Dio sia la voce del popolo. Qui il silenzio è essenziale, perché lo spirito tace per ispirare l'attenzione amorosa dei fedeli al mistero e per assumere la sola voce del sacerdote che fa memoria dell'evento pasquale. È lui che ha il compito di fare la vera memoria efficace delle parole di Cristo. Anche nelle altre preghiere consacratorie, ad esempio per le ordinazioni, per la professione religiosa, per la consacrazione delle vergini, per la consacrazione degli oli, questo silenzio epiclettico diventa molto importante per propiziare la discesa dello Spirito, come già suggeriva il testo arcaico di Ippolito per l'ordinazione del Vescovo. Anche i riti di presentazione dei doni, per i riti, è previsto un silenzio facoltativo, dice sempre la prescrizione del messaggio. Poi penultimo, il silenzio di meditazione. Il silenzio in risposta alla proclamazione della parola è molto importante, perché non solo assicura quasi la respirazione tra i testi che devono essere intesi, ma non qualche pausa dopo le letture favorisce l'assimilazione della parola ascoltata, ma perché la meditazione della parola di Dio permette quella piena risonanza della voce dello Spirito che poi unisce più strettamente la preghiera personale con la parola di Dio, così dice la liturgia delle ore, e favorisce una più profonda intelligenza e l'assenso del cuore. Le applicazioni di questo silenzio dopo la proclamazione della parola, specialmente dopo l'omelia, si applica anche alla recita dei salmi, abbiamo già visto. Il silenzio meditativo dunque contribuisce a ritmare la liturgia della parola, a strutturarla, ad informarla, per evitare che si trasformi in una semplice scuola solo didattica o catechetica, o non per attenuare o per non attenuare la portata soprannaturale del messaggio che è divino. L'ultimo, il silenzio di adorazione. Questo silenzio accompagna soprattutto la ricezione dell'Eucaristia nella comunione e i momenti dopo la comunione e l'adorazione eucaristica. Esso prolunga dinanzi al Cristo Signore presente nel sacramento l'intima unione raggiunta con Lui nella comunione stessa, ma anche nell'adorazione della croce al Venerdì Santo. In forma collettiva il silenzio adorante diventa un'espressione di quell'atteggiamento che deve permeare tutta la partecipazione profonda al mistero liturgico celebrato. Dopo questo silenzio adorante, l'orazione dopo la comunione non apparirà più come una preghiera conclusiva o finale, come spesso molti intendono, quasi una specie di ricapitolazione di un discorso, ma piuttosto come la raccolta dei frutti della celebrazione. Essa ci sprona silenziosamente a portare testimonianza perché possiamo esprimere nella vita ciò che abbiamo professato nella fede, la comunione di Pasqua, perché la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella nostra vita, l'orazione dopo la comunione della seconda domenica di Pasqua. Che sono all'ultima pagina della comunione. Possedere la parola e comprendere il silenzio è un titolo sempre del nostro Santo Ignazio di Antiochia. Questa riscoperta del silenzio liturgico, secondo i documenti ufficiali, ha certamente confermato la constatazione amara del cardinale Ratzinger, citata nella premessa: la prassi non rispetta spesso queste esigenze. Siamo partiti da una fondazione teologica del silenzio, abbreviata in rapporto con la parola, sulla traccia di una frase di Ignazio. Quando la parola di Dio e il suo verbo uscì dal silenzio del Padre e discese sulla terra negli ultimi tempi, si è instaurata l'economia del verbo incarnato, ma sempre nel silenzio, come dice Antonio. Il principe di questo mondo ha ignorato la verginità di Maria e il suo parto, così come la morte del Signore. Tre misteri risonanti che furono compiuti nel silenzio di Dio, la lettera di Efesini di Ignazio. Ma ancora dall'economia dell'incarnazione consumata nel grande annuncio della risurrezione attraverso il silenzio della croce, siamo passati all'economia degli ultimi tempi, che è quella liturgica sacramentale, dove predomina ancora la parola, perché tutto è divenuto memoria degli eventi, delle parole, da Var, abbiamo sentito ieri dalla salvezza. Ora questa struttura di dialogo che la liturgia della parola mette in opera è solcata dal silenzio. La potenza dello Spirito che agisce nelle azioni di culto e perciò nella vita della Chiesa e del mondo libera un nuovo silenzio di raccoglimento, cioè riempito della presenza di colui che ha le parole della vita eterna, silenzio di adorazione che rende più consapevoli la nostra vita nascosta con Cristo in Dio, silenzio che impone lo stesso canto e la musica, al contrario di ciò che spesso avviene con repertori roboanti o poco ispirati al mondo biblico e con inni che sono più catechesi che preghiera, penso così, più discorsivi che suggestivi, quello stile quello stile lirico che è proprio del verbo di Dio. Infatti, sentite questa frase che meriterebbe di essere poi ricordata anche a tanti gruppi giovanili che strombazzano nelle chiese. Come dice Clemente Alessandrino, questo divin verbo ha abbandonato la lira e la chitarra, strumenti senz'anima, per accordarsi per mezzo dello Spirito Santo il mondo intero riunito nell'uomo. Egli se ne serve come di uno strumento a più voci e accompagnando il suo canto di questo strumento che è l'uomo, egli suona a Dio. Dal verbo uscito dal silenzio, di cui anche quello che ha fatto tacendo è degno del Padre, come dice sempre il nostro Santo Padre Ignazio. E oggi la liturgia attinge la sua forza espressiva per mezzo del simbolismo. Questo, mentre svela le realtà, i simboli sono sempre significanti, pure le nasconde, perché la realtà divina dello Spirito che ci è comunicata non è ancora svelata nella sua pienezza di possesso. Allora si può concludere ancora con questa frase di Ignazio: possiede veramente la parola di Dio, può comprendere solo chi possiede veramente la parola di Dio può comprendere anche il suo silenzio per essere perfetto. Grazie, Monsignor Lodi, di questa ricchissima relazione che mi pare è stata la conferma tangibile, vero, di quella presentazione che ho fatto prima, dove veramente i suoi interessi maturati attraverso tanti anni e coltivati con grandissima fedeltà, sia per una visione teologica delle cose, sia per un'attenzione storica alle testimonianze più significative, sia quella di una premura profonda e non superficiale per la crescita spirituale della nostra generazione e della cristianità dei nostri tempi, mi pare che si è espressa in una maniera bellissima e certo gli dobbiamo essere grati. Lo sento veramente come una sintesi di un mondo di cose che sono state non solo penetrate intellettualmente col cuore, ma hanno formato anche continuo e capitare oggetto di attenzione, di premura, di preoccupazione quotidiana attraverso i tempi in cui noi stiamo muovendo. Certo che proprio appare sempre più chiaro come quel horror vacui che ha infarcito le celebrazioni di apologie nel Medioevo è tutt'altro che morto nella nostra generazione ed è quello che rischia di toglierci il vero successo spirituale anche della riforma liturgica. Questa sensazione che io ho avuto e l'horror vacui certamente non si recupera tanto facilmente se non si in qualche maniera risale a disfare quel vacuum di cui l'orrore è semplicemente testimonianza. E quindi un discorso che non può non essere teologico, e io ho potuto molto fortemente nel sentire pieno riaffiorare il nostro Ignazio di Antiochia, ed è una grazia inaspettata di aver sentito oggi questo, cioè di trovarci oggi a fare questo discorso con attenzione maggiore alla parola luminosa di quest'uomo. Ecco, tutto questo deve trasferirsi in pedagogia intelligente, sensibile, concreta, operante nei nostri giorni, e anche questa istanza certo è molto incombente e ha bisogno della cooperazione di tutti, forse anche di quelli che non credono, anche di quelli che contestano, anche di quelli che a modo loro ma sentono veramente certi disagi, certi limiti, certi toccano in mille maniere questo vacuum, questo vuoto che bisogna in qualche maniera riempire, o più meglio attraverso una conoscenza più profonda recuperare e risanare. Mi pare che in questo senso la cooperazione di tutti quelli che hanno portato un contributo a questo incontro, la interdisciplinarità, veramente è stata benefica.